24 mattino. Buongiorno, bentornati in diretta 24 mattino. Luca Telese, 349-238-6666, i messaggi SMS per i vostri preziosi suggerimenti, appunti, consigli, e 800-24-0024 se volete chiamarci nell'ultima parte per intervenire sul tema dei vaccini e del conflitto che si apre oggi fra la Lombardia e il governo nazionale. Allora cominciamo questa rassegna stampa da un pezzo che non leggerò. Kate William, terzo figlio in arrivo, lei ha la nausea, parte il totonome, Harry tira il fiato e chi se ne frega. Cioè non abbiamo la fortuna di non avere dei reali d'Italia, perché dovremmo interessarci ai reali di un paese lontano. Mentre invece oggi voglio sottoscrivere, leggere, trasformare in una meravigliosa e imponente dedica il meraviglioso pezzo di Massimo Gramellini. È una storia, la storia di un uomo, e sentite che storia. Schiantato da una malattia precoce e letale, un meccanico di neanche 40 anni, scrive Gramellini nel suo buongiorno sul Corriere della Sera, ha lasciato in eredità la sua officina a 5 dipendenti. Si chiamava Andrea Comand ed era un friulano senza figli con un'azienda di famiglia. L'aveva fondata da poco dopo un lungo apprendistato, infondendo tutta la sua passione e la passione di cui sono capaci certi italiani concreti, ai quali la consapevolezza di vivere in un paese che fa tutto per mortificare gli slanci non ha ancora estirpato la voglia di provarne. Al momento di separarsi dall'azienda, Comanda avrebbe potuto disporre la vendita, devolvere il ricavato a madre e fratelli. Invece ha pensato che i suoi collaboratori fossero gli unici in grado di portarla avanti, così da garantire a lui un afflato di immortalità. Nell'era dei capitali che si spostano con un clic e dei lavoratori declassati a merce fungibile di scarso valore, scrive Gramellini sul Corriere della Sera, storie come questa sanno di un'archeologia economica e forse sentimentale. Eppure, scorrendo la lettera con cui i 5 dipendenti hanno accettato e ricordato l'eredità ai Comand, ci si imbatte in concetti imprescindibili per chiunque voglia fare un'impresa, in genere qualcosa di durevole. Merito, esempio, coinvolgimento, condivisione. Parole che la politica ha inflazionato e tradito al punto da renderle peggio che retoriche, patetiche. Il gesto di Comand, scrive Gramellini e noi con lui, restituisce loro una potenza eversiva. Si può ripartire solo se si riparte da qui. Eroe. Eroe italiano, ma non per la retorica, perché rompe un cliché, rompe il cliché delle dinastie, delle terze generazioni esangui, è uno che dice ho fatto qualcosa, e fare in modo che questo qualcosa resti vivo vuol dire trasmetterlo a qualcuno che so che questa azienda la farà vivere e fruttare. Medaglia d'oro, se volete intervenire per me. Non c'è niente da aggiungere a quello che ha scritto Gramellini. Un altro pilastro, perché a me piacciono molto questi corsivi brevi di prima, quando sono ispirati, non c'è niente di meglio, della giornata, è una riflessione sulla memoria, e pensate, su Montanelli, e ce la suggerisce Mattia Feltri. Sulla stampa, i rabdomanti di internet ieri hanno scoperto che nel 1936 Indro Montanelli, ufficiale nella campagna d'Africa, acquistò una moglie abissina di 12 o 14 anni, dipende dalle versioni, perché gli fosse amante domestica. Lo hanno scoperto, pensate, scrive Mattia Feltri sulla stampa, dal brano di una trasmissione del 1969 nella quale a raccontare la vicenda, sapete chi era? Il medesimo Montanelli. Vicenda che era stata raccontata in qualche dozzina di articoli dallo stesso Montanelli o da altri giornalisti, e che era raccontata in qualche decina di libri dal medesimo Montanelli o dai suoi biografi. E però, secondo la logica istantanea e cannibalesca di internet, si è trattata di una rivelazione. Per tutto il giorno il grande Indro, ridotto all'impotenza dalla morte, è stato ridipinto quale fascista, pedofilo, stupratore, spregevole, lurido schiavista, porco, barbaro e non solo, nemmeno fra centinaia i titoli peggiori. Quelli ve li risparmiamo per decenza. Non si finisce mai di stupirsi, dice Mattia Feltri. Attorno a Montanelli è stato costruito un mito che va persino oltre l'enormità di quello che ha rappresentato per noi cronisti. E con la stessa volatile destrezza c'è chi è disposto a frantumarlo sull'emozione quotidiana che poi si esaurisce, scrive Mattia, all'ora dell'aperitivo. Ogni biografia è rivisitabile lì per lì, perché di ogni biografia nulla si sa, la biografia non esiste, la si valuta per sentimento, per sentito dire, secondo l'ultimo falso di svelamento, secondo un unico fotogramma che sul momento sovrasta tutto. E il giudizio si fa definitivo, implacabile, come nel ruggito infantile, inetto e purificatore del processo di piazza. Ebbene, questo è un editoriale che ci dividerà. Non vuol dire che dobbiamo sottoscrivere le idee di Montanelli e del suo matrimonio con la moglie abissina del lontano 1936. Vuol dire che internet appiattisce tutto a volte, che il passato scompare e che dobbiamo recuperare la profondità e la verticalità della storia, altrimenti non capiamo più niente. Allora andiamo però alla notizia del giorno, e questa veramente va raccontata canonicamente con l'apertura del Corriere della Sera. Vaccini, lo strappo del Veneto, moratoria fino al 2019, la Lorenzin fuori legge, i responsabili sono loro in caso di epidemia, lo scontro durissimo fra la regione Veneto che fa slittare i tempi per i certificati da presentare nelle scuole, la Lombardia frena no alla proroga, il pezzo, due pagine giustamente di apertura del Corriere della Sera, Margherita De Bacca e Simona Ravizza, il giornale Luciano Fontana decide di fare il focus su questo. E ovviamente è questo strappo che fa discutere. E allora leggiamo nel pezzo di Simona Ravizza che cosa è successo. Strappo del Veneto sulla vaccinazione obbligatoria per l'ingresso ai nidi e alla materne. In un decreto firmato dal direttore generale della sanità Domenico Mantoan viene prevista una moratoria fino al 2019-2020 per la presentazione dei documenti che attestano l'avvenuta esecuzione dei vaccini o la volontà di farli. L'intenzione della regione, guidata da Luca Zaia, è di non lasciare nessun bambino già iscritto fuori da scuola fino allora. Una scelta definita ieri dal ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, contra legem. Il provvedimento del Veneto arriva proprio nel giorno in cui la Lombardia, con l'intervento del governatore Roberto Maroni, congela i pluriannunciati 40 giorni di proroga nell'applicazione della normativa nazionale. Non vogliamo uno scontro con il governo, quindi due direzioni diverse. Le ultime circolari dei ministeri della salute e dell'istruzione ribadiscono le regole, ricorda la Ravizza sul Corriere. Per ammettere a scuola i bambini fra 0 e 6 anni, i genitori devono consegnare entro il 10 settembre, e ne sappiamo qualcosa, chiunque noi è padre o madre, la difficoltà di trovare, prenotare, la documentazione che comprova l'effettuazione di 10 vaccini, poliomielite, difterite, tetano, epatite B, pertosse, influenza, eccetera, e pena la non possibilità di entrare nelle aule. La risposta di Lorenzin, c'è un'intervista, la ministra avverte, saranno responsabili di eventuali epidemie, il divieto è sacrosanto. Il nostro obiettivo è chiaro, tutelare la salute dei tutti. E poi un'intervista di spalla, ma anche questa fatta dalla De Bac merita di essere citata, è una madre che parla. E ovviamente sua figlia è al Bambin Gesù e quindi è una storia. Mia figlia Giulia non può proteggersi, è inaccettabile che andare a scuola per lei sia pericoloso a causa delle mancate vaccinazioni degli altri bambini. 800 24 0024, dopo parliamone insieme con Oscar Giannino, però vi dico subito come la penso io. Il federalismo è una cosa seria. Il federalismo si può sostenere, volere, auspicare, ma io non credo che possa esistere un paese dove per un bambino che va a scuola a Crotone una cosa sia legale e per uno che va a scuola a Milano sia illegale. Non possono esserci due leggi sulla sanità e sulle questioni primarie che riguardano la vita e, come dire, le scelte che cambiano la condizione non solo propria ma anche degli altri. La libertà finisce dove inizia quella degli altri, e quindi io di fronte a questa vicenda alzo le mani e dico: secondo me questo conflitto è sbagliato. Passiamo alla verità. alla verità, perché in una vicenda di cui abbiamo parlato, vi ricordate la contestazione della signora Mazzoni a Matteo Renzi sul tema delle banche? Beh, incomincio ad avere una coda. La verità ha una notizia di prima pagina, un pezzo di Maurizio Belpietro e uno scoop, non lo so, o comunque una notizia che non ho letto da nessun'altra parte, di Giacomo Amadori. A pagina 3, la verità, schedano chi protesta contro le banche. La polizia chiede i documenti a tutti quelli che manifestano per denunciare le malefatte di Etruria e simili. Ad alcuni di loro arrivano anche telefonate. Sappiamo che volete contestare. È stupenda, questa cosa è bellissima. Arriva la telefonata preventiva. No, si parla tanto dello Stato paternalista, però sappiamo che volete contestare, eh? I comizi di Renzi ovviamente sono off limits, pensate, il racconto dei manifestanti, ci bloccano già in stazione. Qui non è il problema di Renzi, non è il problema di Pinco, di Palo, non è neanche il problema delle banche in generale, che quando uno dice le banche è un'astrazione sbagliata, invece il problema è di questa storia, di quei dirigenti e di coloro che hanno delle responsabilità, che questi possono essere contestati. Esiste ancora la libertà di espressione di parola in questo paese. La polizia controlla, scrive Amadori, i gruppi di risparmiatori traditi dai crack degli istituti e dalla legge sul bail-in, telefonate, perquisizioni e addirittura blocchi. Sabato il manipolo dei sovversivi si è diretto in auto verso la festa dell'Unità di Bologna, dove era atteso Renzi. Già la mattina la Digos Estense era in allerta e ha provato a contattarli. All'ingresso della kermesse, nonostante non fossero identificabili da maglietto o striscioni, i pensionati ferraresi, i pericolosi pensionati ferraresi, sono stati bloccati dalla polizia e allontanati perché definiti non graditi. Una di loro però, Giovanna Mazzoni, di lei parliamo, è riuscita a introdursi e, come sapete, ha esibito con la consueta eleganza la bandiera. Voi rubate, lo dice a sua sorella, aveva risposto Renzi. Subito dopo i poliziotti hanno circondato l'anziana, le hanno strappato la bandiera, le hanno intimato di tacere. La pensionata, costretta al silenzio, ha preferito lasciare la manifestazione scortata dalla polizia fino all'uscita. I cinque erano stati già bloccati il 31 giugno 2016 in stazione a Bologna affinché non raggiungessero il comizio di Renzi a sostegno del sindaco del capoluogo emiliano Virgilio Merola. Pericolosi pensionati ferraresi. E insomma, questa era la verità, questa è la storia di cui parliamo, e ci fermiamo solo un attimo e torniamo fra poco. Rieccoci 24 mattino, dentro il viaggio nella nostra rassegna stampa nel mondo della carta e della vita. Il titolo oggi, l'epigrafe, è Un uomo solo al comando, il bellissimo editoriale di Massimo Gramellini sull'imprenditore che è morto regalando la sua impresa ai suoi dipendenti. E arrivano anche critiche. Paolo Moretti: Milan mi faceva girare le balle di prima mattina, ma lei è peggio. Pazienza, siamo così, siamo fatti così. Allora, questa seconda parte inizia con l'ape. L'ape si allinea alla speranza di vita, e leggo dalle tavole sacre qui in questa ditta, norme e tributi del Sole 24 Ore, c'è un bellissimo paginone che spiega come funziona, e spiega molto bene perché c'è una tabella enorme, molto chiara. Marco Rogari da Roma spiega che all'ape volontaria, cioè la pensione anticipata, si potrà accedere su richiesta dal 1 maggio 2017 con effetto retroattivo. E si dovrà indicare subito nella domanda all'INPS se si è orientati o meno a un finanziamento supplementare con conseguente maggiorazione dell'importo della rata mensile per restituire il prestito. Avete capito? Sto leggendo un pezzo del Sole 24 Ore che racconta come funziona la pensione anticipata. Cioè, voi ottenete un prestito, andate in pensione prima, e con la pensione che prendete, su questa pensione c'è una tassa, o diciamo così una rata di un mutuo che voi fate per anticipare la pensione. Ecco, Qual è la cosa bella di questo pezzo rispetto a altri che ho visto su altri giornali? Che c'è un esempio chiaro. Se hai 2.000 euro di importo di pensione netto, infatti, con un anticipo a 12 mesi, paghi, prendi l'85% della tua pensione, l'importo dell'APE è 1.700 euro, la pensione netta al netto della rata è 1.883. Se vai 24 mesi prima della scadenza, diciamo dettata dalla Fornero, aumenta ovviamente quello che paghi, prendi l'80%, l'importo dell'APE è 1.600 euro, la pensione netta al netto della rata del rimborso del prestito è 1.776 euro. Se vai in pensione a 36 mesi, importo dell'APE 1.500 euro, pensione netta al netto della rata 1.682 euro. Insomma, si paga, si pagherà e ovviamente si paga come se si pagasse un mutuo. La proposta che è stata varata è stata firmata ieri dal Premier Gentiloni, scrive Marco Rogari sul Sole 24 Ore, che recepisce in molti punti gran parte delle sollecitazioni arrivate dal Consiglio di Stato con il parere del luglio scorso. Il testo al quale ha lavorato il team economico di Palazzo Chigi, guidato da Marco Leonardi, passa ora alla Corte dei Conti per la registrazione e per poi essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Non sarà però di fatto pienamente operativo immediatamente. Lo stesso provvedimento prevede che entro un mese dalla sua entrata in vigore i ministeri dell'economia e del lavoro dovranno stipulare con l'ABI un accordo quadro per definire il tasso di interesse da corrispondere sul finanziamento, cioè quanto pagate di interessi se andate in pensione prima. E dentro lo stesso arco di tempo dovrà essere siglata l'intesa con l'ANIA per definire la misura del premio assicurativo e del rischio di premorienza, perché anche qui c'è un altro tema importante: siccome è come se fosse un mutuo, esattamente come se fosse un mutuo, voi dovete assicurarvi anche in caso di morte. Ovviamente anche questa assicurazione viene detratta dall'APE, dalla pensione anticipata. In altre parole, scrive ancora Rogari sul Sole, il dispositivo dell'APE volontaria potrà decollare alla fine di settembre e fra la fine di settembre e l'inizio di ottobre. Il costo finale del prestito, ecco le cifre, dovrebbe aggirarsi tra il 2,7 e il 2,8% e questo tasso potrà in molti casi ridursi, questo è molto importante, quando fate la dichiarazione dei redditi, se scatta una detrazione fiscale prevista dalle norme originali. Ecco, questo è esattamente come funziona. A cosa lo leggo oggi? A una notizia di politica che, se diciamo si realizzerà, farà sicuramente discutere, e che è l'apertura del Fatto di oggi. Il PD riscopre la carta per salvare i vitalizi dalla legge voluta dal PD. Non è un errore, è un gioco di parole del quotidiano diretto da Marco Travaglio, che con un pezzo di Tommaso Rodano oggi spara su questa eventualità. Ma a che cosa si fa riferimento? Secondo Tommaso Rodano, il PD si prepara a usare nella seconda lettura, quella al Senato, la carta dei tagli incostituzionali. Zanda, sottotitolo Catenaccio, distrugge al Senato la legge che i democratici hanno approvato alla Camera. Un flashback, Montecitorio 26 luglio, il capogruppo del PD Ettore Rosato esulta, la Camera ha approvato la legge che porta la firma del collega renziano Matteo Richetti, prevede che tutte le pensioni degli ex parlamentari siano ricalcolate secondo il metodo contributivo, un taglio sostanzioso agli assegni degli ex onorevoli sostenuto anche dai voti del 5 Stelle. Garantisce Rosato, il vitalizio non è una pensione, è un'altra cosa, ce l'hanno detto nelle audizioni i costituzionalisti, ci hanno detto potete farlo. Dunque, quando si discusse la Camera, secondo il ricordo di Tommaso Rodano, nessun profilo di incostituzionalità. Cambio di scena. Domenica 3 settembre, l'altro capogruppo del PD al Senato, Luigi Zanda, prende la parola alla festa dell'Unità di Modena e qui nasce la notizia del Fatto. Dobbiamo avere il coraggio civile, popolare o non popolare che sia, di esaminare il provvedimento sui vitalizi per la sua costituzionalità, ovvero prima di portare la legge a Palazzo Madama bisogna essere certi che non sia incostituzionale. Traduciamo noi, il taglio ai vitalizi non si fa più. Forse è una previsione eccessiva, però ci sono state diverse uscite importanti. Un senatore molto importante, qui lo sto dicendo io, Ugo Sposetti, l'ex tesoriere dei Democratici di sinistra, ha detto che lui non voterà contro, ma organizzerà la rivolta per far cadere questo provvedimento nell'aula del Senato. Trattandosi di senatori di maggioranza, essendosi una maggioranza più risicata al Senato, questa cosa è, come dire, francamente è altamente probabile. Un taglio interessante, conti in rosso, la situazione drammatica dei conti del Partito Democratico. Vandamarra sempre sul Fatto, al Nazareno c'è la cassa integrazione e come sapete i dipendenti si trovano in questa condizione perché c'è un rosso molto pesante sulle casse del PD dopo i costi della campagna per il referendum costituzionale. Ma andiamo a seguire un po' la notizia politica del giorno, e cioè cosa sta accadendo in Sicilia. In Sicilia succede, e lo leggo dal Corriere della Sera, che Crocetta, ma questo è bellissimo, come la politica cambia verso in poco tempo, ma non nel senso dello slogan di Renzi. Crocetta aveva detto fuoco e fiamme, non permetterò che ci sia un altro candidato, mi presenterò lo stesso, chiedo le primarie. Invece, cambio di scena, ho visto Renzi, non mi candido. Il PD non dimentichi questa responsabilità. Cioè una scelta di responsabilità in nome del quale Crocetta non solo non chiede più le primarie, rinuncia a candidarsi e sostiene lealmente il partito. Voi dite, beh, ma è bellissimo perché ha avuto un grande moto di lealtà. Beh, insomma, bellissimo, ha ottenuto in cambio, lo dice lui nell'intervista a Corriere della Sera, Daria Gorodischi, la possibilità di presentare una sua lista al Senato e quindi in qualche modo otterrà un tesoretto, se raggiunge il 5%, un tesoretto di senatori che dipendono da lui. Ma l'altra notizia riguarda sempre la Sicilia. MDP scommette su Claudio Fava e quindi c'è una candidatura diversa a sinistra sostenuta dai bersaniani, il pezzo è di Monica Guerzoni. Alta la tensione con Pisapia, che non accetta questa scelta, e malgrado il sacrificio eroico di Crocetta si va alla rottura con due candidati divisi malgrado il turno unico. Strade. 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova. Vi presenta "24 Mattino". E rieccoci in diretta a 24 mattino nel cuore della rassegna stampa. Stavamo solcando le pagine di carta che ci portavano in Sicilia, dove c'è questa spaccatura, nasce, lo leggiamo su Corriere della Sera, la candidatura di Claudio Fava separata da quella del rettore Micari. Però almeno il PD è riuscito a ottenere la desistenza di Crocetta e i suoi propositi. Adesso però ci spostiamo a Rimini e raccontiamo attraverso la cronaca del giornale, attraverso il pezzo di Stefano Zurlo, che cosa sta succedendo nelle indagini che riguardano lo stupro tremendo, bruttissimo ovviamente. E c'è la difesa del congolese, ero ubriaco, dormivo, però i video lo incastrano e lui si riconosce. Poi ci sono i complici, gli altri ragazzi, i minorenni in qualche modo plagiati, arruolati in questo plotone, filmati durante tutta la notte mentre giravano per Rimini. E tenevamo solo ferme le vittime. Allora sono smentiti dalle testimonianze, per fortuna, e sentiamo che cosa dice Zurlo, cosa racconta l'inviato del giornale. La notte dell'orrore si fa più lunga. Non solo l'aggressione ai due ragazzi polacchi e lo stupro della transessuale peruviana. Ora salta fuori che i quattro criminali avevano già colpito la sera del 25 agosto, intorno alle 22, e in una zona più centrale della città. Avevano portato via i telefonini a un gruppo di ragazzi toscani che avevano provato a resistere e si erano presi una discreta dose di schiaffoni. Insomma, il raid era cominciato prima e la prova inoppugnabile è arrivata domenica con la cattura di Botungu. Nel suo bagaglio c'era proprio uno dei cellulari portati via a uno dei giovani, oltre all'orologio rapinato al polacco, pure furbo. Scrive Zurlo: non è l'unica novità nell'inchiesta e si arricchisce i nuovi colpi di scena. La ragazza che il 12 agosto, due settimane prima, si era salvata in estremis dalla violenza dei quattro sconosciuti, ha visto le foto di Botungu e ha chiamato gli investigatori a colpo sicuro. È lui. Anche altre persone vittime di furti o rapini sulle spiagge della città hanno contattato la questura perché sono convinte che ad agire siano stati loro, i quattro o alcuni di questi quattro. Le immagini riprese dalle telecamere, diffuse ora dai media, facilitano il lavoro dei detective che cercano di ricostruire tutti i colpi messi a segno dalla gang. In particolare colpisce l'imboscata tesa alla coppietta di Legnano la sera del 12 agosto, l'uscita dalla discoteca, il quartetto era piombato sulle due vittime all'improvviso, lui era stato picchiato, lei spinta contro il muro, graffiata, minacciata. Bene, mi fermo qui con una riflessione. È una banda oscena, sono un gruppo di sbandati e un capo improbabile e violento, sono forse anche, come dire, un po' vigliacchi nel loro smentire qualunque cosa, tant'è vero che sul pezzo del Corriere si racconta un dettaglio che mi ha colpito, che persino l'avvocata d'ufficio è un po' sobbalzata di fronte alle improbabili scuse fornite agli inquirenti. Ovviamente non lo dico perché sono stranieri, ma perché chiunque facesse una cosa di questo tipo per me è come dire, spregevole e repellente. Un altro aggiornamento sulla destra, il pezzo di Tommaso Labate, primarie Mattarellum, Salvini sfida Berlusconi, malasse fra i due e salto. Tajani, che ieri è stato annunciato come un altro dei possibili candidati al centrodestra, dopo anche Mara Carfagna, dice: sto bene dove sto, il candidato naturale per vincere è Silvio. Però qui una precisazione: Berlusconi allo stato attuale non può candidarsi e quindi Tajani è ancora a tutti gli effetti in pista. Una notizia sul Sole 24 Ore, l'ho vista solo lì, mi sembra molto importante, è la notizia che aumentano il numero degli italiani, dei giovani italiani, che non hanno fatto la terza media. Sembra una cosa laterale, ma è una notizia, secondo me, molto importante, forse una delle ricerche più drammatiche che vengono alla luce in queste ore, che ci spiega come in Italia ci sia un problema di formazione che è un problema di competitività del sistema paese, ma è anche ovviamente un problema di questione civile, di inquietudine che dobbiamo avere su cosa sta accadendo ai nostri ragazzi. Allora, le notizie curiose da Mascelli sul Giornale: il ponte, c'è un ponte che è stato fatto a tempo di record in 6 anni, ma non è il ponte sullo stretto di Messina, è un ponte inglese costruito tranquillamente senza polemiche, che dovrebbe servire forse da modello. Luciano Gulli, sempre sul Giornale, una storia curiosa, mi ha però colpito, drammatica, ed è quella del parlamentare macroniano che ha litigato con un altro parlamentare socialista, gli ha spaccato la testa con il casco e lo ha ridotto in fin di vita. Come dire, ogni volta diciamo: beh, però l'Italia, beh, però gli italiani, siamo i più barbari, siamo i peggiori. Insomma, una cosa così in Italia non è mai accaduta ed è sicuramente molto inquietante. Volevo andare, perché ho ancora un po' di tempo, a leggervi invece da Libero una vicenda che riguarda Filippo Facci. Allora, voi sapete che c'è una battaglia sul velo, sull'Islam, sulle opinioni, però è accaduta questa cosa. L'altro ieri la giornalista Silvia Di Pinto di Repubblica TV, scrive Facci, si è coperta di nero il capo e ha video intervistato l'imam di Bari, Sharif Lorenzini, il quale ha indicato me, cioè me Filippo Facci, e pochi altri fra i nemici dell'Islam. Questo senza che lei obiettasse nulla, nonostante la domanda specifica l'avesse formulata lei dopo che l'imam si era parimenti espresso nella preghiera del venerdì. Insomma, la giornalista ha fomentato, poi incurante di aver lasciato mettere due colleghi alla berlina da un imam, non da Topo Gigio, è passata a lamentarsi perché il gesto ossequioso di mettere il velo le ha procurato, ha detto, migliaia di insulti via web. Fomentatori da tastiera che hanno pubblicato il mio nome, scrive la giornalista, e foto per raggiungere il mio profilo. Una cazzata, scrive Facci, perché il suo nome già compariva a margine della video intervista. Finita, ma che è intervenuta la Federazione della Stampa, e non per lamentare che dei giornalisti, grazie a una giornalista, fossero stati pubblicamente indicati come nemici dell'Islam, ma per lamentare il sessismo e il razzismo di cui è stata vittima lei. Ecco, questa vicenda dice quanto sia duro lo scontro, quanto attraversi anche le nostre coscienze, le nostre professioni, i nostri giornali. Io non voglio in questa vicenda dirvi niente di più se non segnalarvi che qui c'è veramente un rischio molto grande. Ci fermiamo ancora.